as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi dobbiamo fare una puntata dedicata tutta ai presidi che si sono svolti questa settimana a Bologna, ma in tutta Italia, organizzato dalla FIOM, dalla FIM e dalla WILM sul contratto nazionale dei metalmeccanici. L'abbiamo anticipato, abbiamo fatto l'ultima scorsa puntata, abbiamo parlato di questo, però purtroppo questa puntata, come alcune volte accade, e io non vorrei che accadesse mai, dobbiamo parlare di una strage. Rimanderemo questa puntata dei presidi che si sono svolti, perché è importante, chi ci segue, chiaramente molti sono metalmeccanici, non solo, ma comunque il contratto dei metalmeccanici, ricordo a tutti, è un'avvertenza che farà a scuola, se si riuscirà a portare a casa. Vediamo nei trasporti quello che è stato firmato, purtroppo non è un gran accordo, soprattutto sull'aspetto salariale, poi spero di fare una puntata anche su questo. Il contratto del pubblico impiego dei servizi, abbiamo visto, c'è stato un accordo separato, e insomma la situazione non è bella. Però ci sono delle situazioni come quella che è successa in questi giorni che gridano vendetta. La puntata di oggi sarà dedicata alla strage di Calenzano. Io sono andato a una manifestazione la scorsa settimana che si è svolta a Calenzano, un presidio, io speravo di un corteo, ma si è deciso di fare un presidio in cui ho potuto intervistare il segretario della CGIL di Firenze e ho intervistato il sindaco di Calenzano su quello che è accaduto sulla strage. Sentirete dopo il pezzo musicale, che purtroppo è uno dei pezzi che ci ricorda che in Italia la questione dei morti sul lavoro è una cosa molto vecchia, però quest'anno veramente è un anno nero. Chi come noi si occupa di infortuni sul lavoro, per noi è una bandiera la battaglia contro gli omicidi sul lavoro che accadono tutti i giorni in Italia. Voglio ricordare che quest'anno veramente, soprattutto in Toscana, è un anno di stragi. Ricordiamo la strage del 16 febbraio, ne abbiamo parlato anche nell'intervista, era nell'aria quella strage, quella del cantiere dell'Esselunga, no? 4 operai e un trasportatore, sono 5 morti, così come a Calenzano. Il 16 febbraio c'è stata questa strage. Per non dimenticare il 9 aprile a Suviana, 7 operai sono morti. Il 6 maggio a Casteldaccia, nel Palermitano, 5 morti, che erano addetti alle fogne, erano degli operai. Insomma, quest'anno, in 10 mesi ci sono stati 850 morti sul lavoro. Chiaro che è un aumento, c'è stato di morti sul lavoro, così come gli infortuni che sono aumentati, sono le denunce anche di un bel po'. Poi c'è stata le stragi delle esplosioni, quest'anno purtroppo le esplosioni hanno caratterizzato purtroppo le stragi e i morti sul lavoro. Non dobbiamo dimenticare l'esplosione a Bolzano, qui è morto un lavoratore, l'aluminium, la fabbrica di Bolzano. Per non parlare della strage della Toyota, abbiamo fatto una puntata qua vicino a casa. I due compagni che sono morti, non li dimenticheremo mai. Continueremo a lottare anche per loro. Sono tantissimi morti. Più di 650 morti solo proprio sui luoghi di lavoro. Per non parlare di 253 sulle strade. Altri morti. E adesso Calenzano. Allora, Calenzano è una strage che ci fa riflettere. Perché fino adesso abbiamo parlato di appalti. Questa volta sentiremo nelle interviste che c'è qualcosa di nuovo in cui ragionare e cercare di trovare delle soluzioni che vanno oltre la classica logica delle morti sul lavoro che ci hanno contraddistinto tutte le politiche di questi anni. Voglio solamente dire che adesso le ultime notizie si parla che forse sia stato questo carrello, se ne parlava anche lì, di questo carrello che si stava muovendo e c'era una nube dovuta al pompaggio del prodotto che si stava pompando, e e lì c'è stata l'esplosione. Adesso non sappiamo se queste notizie sono 100% appurate, sono le prime indagini, vedo fuori questo. Stiamo ancora aspettando qualcuno che ci dica che è successo in Toyota. Speriamo che ci sia la verità, sia in Toyota che a Calenzano, e chi debba pagare paghi. È una cosa che noi come lavoratori chiediamo, vogliamo, rivendichiamo che venga fatta giustizia. Adesso ci ascoltiamo un bellissimo pezzo, ripeto, della storia, delle canzoni di lotta italiane, e poi le interviste al segretario della CGIL e poi al sindaco di Calenzano, e faremo alla fine una riflessione su quello che stavo detto. Era bello il mio ragazzo, sempre pieno di speranze, mi diceva mamma mia, un giorno sai ti porto via. Da tutta sta miseria, in una casa da signora, via da questo faticare, potrai infine riposare. Era bravo il mio ragazzo, con il babbo che era bimbo, ma lui disse non temere, vado io ora al cantiere. Sono grande ormai, lo vedi, prendo il posto di mio padre, son capace a lavorare, non ti devi preoccupare. Era stanco il mio ragazzo in quel letto d'ospedale, ma mi disse non fa niente, solo un piccolo incidente. Quando si lavora sodo non c'è tempo da buttare, non puoi mettere tanta cura per far su l'impalcatura. Era bello il mio ragazzo col vestito della festa, l'ho sentito tutto mio addio, e poi quando l'ho baciato gli ho strappato una promessa e gli ho detto anima mia presto sai portami via. Era bello il mio ragazzo col vestito della festa, l'ho sentito tutto mio mentre gli dicevo addio. Segretario generale della CGIL di Firenze, Bernardo Marasco. Siamo qua a Calenzano per la manifestazione dopo la strage. Raccontaci un po' come sta vivendo la cittadinanza, i lavoratori, quello che è successo. Sai, la situazione qui viene intanto da un'altra ferita precedente. Noi 10 mesi fa abbiamo avuto la vicenda di Via Mariti, che aveva, diciamo, una gravità altrettanto immensa. E quindi è una ferita sulla ferita, una ferita che si riapre. Ancora una volta, diciamo in forma diversa, però avviene quello che è avvenuto anche a Via Mariti, cioè anche in questo caso l'incidente avviene in un luogo di interferenza, cioè in una struttura dell'ENI, in cui degli autotrasportatori fanno il carico di benzina, in cui un'altra azienda sta facendo la manutenzione. Al di là della sciaguratezza di questa situazione specifica, ancora una volta è dove non c'è una condizione di presa di responsabilità complessiva e sistemica rispetto alla situazione, ma ogni cosa viene lasciata e scaricata come responsabilità a quello che viene, e l'esito è che l'ultimo che viene è un lavoratore e l'ultimo che viene ne fa le spese. E questa vicenda vale, anche se in forme diverse, per gli appalti, certo, ovviamente, che è la stessa logica di spacchettamento e di deresponsabilizzazione. La stessa logica avviene quando hai lavoratori precari che non hanno avuto la formazione che inserisci e che hanno degli incidenti, e in forma diversa accade anche nei siti più strutturati, in cui le procedure sono più puntigliose da questo punto di vista. Quindi qui c'è sicuramente, io penso, poi lo vedrà la magistratura, insomma, ma sicuramente c'è una questione che riguarda delle violazioni di procedure e normative che invece dovevano essere assolutamente rispettate. Però questa cosa avviene costantemente in tutti i luoghi in cui il lavoro è spacchettato, diviso, in cui si è lavorato per precarizzare, in cui si è lavorato per, appunto, disunire il lavoro. E il lavoro disunito ne fa le spese. E noi siamo qui per dire che un modello produttivo che, ancora una volta, disperde il lavoro, lo umilia, poi non solo non fa il bene per il paese, nel senso che non produce un'azienda di qualità, non produce un livello di sviluppo adeguato e mortifica la tenuta sociale del paese, ma poi addirittura in alcuni casi uccide anche le persone. E questo è veramente una cosa che la dignità del lavoro non può accettare, e penso che oggi, da qui da Calenzano, noi ulteriormente lanciamo un grido, l'abbiamo lanciato altre volte, si può dire che spesso le parole non seguono i fatti, ma il nostro dovere morale è tenere alta il grido del lavoro rispetto a questo. Dunque, qua non stiamo parlando di problemi legati al subappalto, ma stiamo parlando di interferenze. Sì, di aziende che lavorano nello stesso sito, che svolgono ruoli diversi, ma sono diverse entità, con diversi RSPP, diversi RLS, diverse procedure di sicurezza. Chiaramente lì il Duvri dovrebbe cercare di risolvere queste problematiche. Dovrebbe averle risolte, dovrebbe esserci, noi non abbiamo ovviamente in questo momento accesso a queste documentazioni, ma sicuramente lì sono previste procedure che sono state verosimilmente bypassate. Perché? Sempre per lo stesso ragionamento, perché in realtà non c'è nessuno che supervisiona e non c'è un preposto che è presente sul posto e sta ai lavoratori gestire le contraddizioni che si creano lì per lì. Quali sono le richieste che fa la CGIL su questi aspetti qua? Perché sugli appalti sappiamo benissimo, stiamo facendo delle battaglie anche a livello contrattuale per cercare di regolare gli appalti, anche la FIOM sta cercando nel suo proprio contratto nazionale di risolvere queste problematiche, ma quando riguarda le interferenze, proposte su questo aspetto? Noi, per esempio, noi sui cantieri edili al Comune di Firenze abbiamo chiesto con forza, abbiamo scritto anche un protocollo, di convocare tutte le aziende che hanno, diciamo, appalti di un certo livello per costruire condizioni di sicurezza e di contrattare in anticipo le condizioni di sicurezza, per esempio il cantiere trasparente, quindi la beggiatura, cioè di non trovarsi nella condizione che aveva Esselunga nel cantiere, certo, di Mariti, no? Certo. Cioè quello di avere una condizione in cui non sapevi nemmeno chi ci avevi dentro, cioè chi va in un cantiere deve sapere per chi lavora, chi c'è, che contratto applica, e deve essere applicato il contratto giusto. Questa è una condizione che dobbiamo noi attivare non solo nella dimensione degli appalti pubblici, ma quando esistono appalti privati, cioè chiedere alle aziende di rendere conto delle modalità con cui organizzano il lavoro. Io penso che questa cosa debba essere fatta anche con Eni, in tutta franchezza. Cioè, no, e ovviamente se noi guardiamo gli incidenti che abbiamo avuto, quelli grossi, Brandizzo, l'Enel di Bologna, certo, i due di Firenze, quelli, diciamo, cioè sono, larga parte sono addirittura controllate pubbliche, cioè che in queste condizioni non ci sia la possibilità di strutturare un elemento organico, penso che questa sia una dimensione contrattuale che noi dobbiamo riprendere. E poi c'è ovviamente la parte del governo, i controlli, ovviamente le leggi che contrastano la precarietà e non che l'aumentano, perché ovviamente io penso, per esempio, che quello che sta facendo il governo in questa fase di rivedere il codice degli appalti, immaginando di bypassare contratti maggiormente rappresentativi e strettamente attinenti all'attività svolta, certo, scusa se uso il sindacalese, no, insomma, no, per sì, capire, sì, sia una cosa gravissima che va ovviamente in una condizione che crea un problema. Ok, grazie mille. Grazie caro, grazie. Salve, siamo qui con il sindaco di Calenzano. Volevamo insomma l'impressione della cittadinanza su questo. Abbiamo parlato con i direttori sindacalisti, con i, sì, lavoratori. La cittadinanza è rimasta sgomenta per questo fatto straordinario, purtroppo drammatico, che ha portato all'uccisione, all'assassinio di 5 lavoratori. Ancora una volta, appunto, si piangono delle persone, sono partite la mattina per andare a lavorare e non tornano la sera a casa dei propri cari. E non è accettabile che, diciamo, noi si continui a combattere continuamente ogni anno una guerra e vede lasciare sul terreno la vita a tanti e tanti lavoratori, e ancora non sono state messe in atto delle risposte, delle strategie che consentano davvero di fermare questa guerra. Dall'altro abbiamo la preoccupazione per la nostra comunità, che naturalmente è stata investita dall'onda d'urto dell'esplosione, che insomma ha subito non pochi danni, è stato anche ferito seppur lieve. Tuttavia, ecco, questa collocazione nata negli anni 50-60 ha capito oggi se è ancora compatibile col contesto che c'è intorno, e questo noi vorremmo, per questo vorremmo aprire un tavolo di confronto con le istituzioni per capire insieme che cosa fare per evitare questi rischi che continuano ad esserci e che possano accadere anche di nuovo questi fatti. Grazie mille. Prego. Dirti tante cose ancora, da non saperle ricordare, raccontar di te che dormi mentre corro al lavoro. Avrei voluto aggrapparmi ancora al calore del tuo ventre, dalla mia cella senza sbarre, maledetta linea 5. Che corri, insegui le tue cose, le tue spine, le tue rose, non scordarti mai di me. Tu che sogni terre sconfinate e i fantasmi dell'estate, non scordarti mai di me. guarderai quel mare di ricordi, quel cielo così blu. Non ti scorderai di quel che c'era, delle luci della sera, che non torneranno più. Non mi scorderò mai di te, cantavano i nostri compagni della banda popolare dell'Emilia Rossa, dedicata questa canzone ai martiri della ThyssenKrupp. Ripeto, noi non dimentichiamo, non dimentichiamo nemmeno gli applausi al Confindustria di Bergamo, che un anno dopo la strage, quando hanno invitato i manager plurindagati che sfuggono alla giustizia italiana, che devono essere messi in galera, ma stanno lì tranquilli in Germania e nessuno li tocca. Non dimentichiamo nulla. Torniamo a Calenzano. Ora, avete sentito che ci sono due tematiche. Allora, chiedo scusa a Calosi, l'ho intervistato, che è il segretario regionale della FIOM, perché mi interessava il suo parere. Purtroppo l'audio eravamo troppo vicini al palco e non si sentiva assolutamente nulla, dunque l'ho cancellato questa intervista. Parlerò io, il tempo. dirò però qualche cosa in più di quello che era previsto che dicessi come nelle conclusioni. Allora, innanzitutto, qui non stiamo parlando di appalti, di subappalti, ma stiamo parlando di interferenze. Allora, il segretario della CGIL è stato bravissimo, credo, è veramente in gamba lui, devo dire, lo conoscevo da un po'. Giustamente lui ha fatto notare che c'è una questione che è dovuta al fatto che il mondo del lavoro è disunito, cioè non è solo stato un po' diviso tra gli appalti e i subappalti, che comunque sia lì c'è comunque una catena di responsabilità che i vari governi hanno sempre cercato, anche i padroni hanno sempre cercato di allentare, però esiste. Esistono comunque delle regole negli appalti. Qui invece parliamo proprio di lavori che fondamentalmente si incrociano, le si chiamano interferenze, varie aziende che lavorano insieme e le interferenze sono davvero un problema enorme. Come fare per evitare che durante le interferenze accadano gli incidenti? Perché insomma uno sta pompando del gas, o sta pompando del petrolio, a benzina, quello che viene pompato, si creano delle nubi, i sistemi non funzionano, interviene la manutenzione che fa quel lavoro. E poi c'è chi lavora nella struttura, che si occupa, che insomma vengono stoccati e funzionano tutti i sistemi di stoccaggio della benzina, quelli che sono dipendenti dell'ENI, chi lavora sotto l'appalto dell'ENI. Insomma, sono tanti personaggi che lavorano ed è una situazione molto complessa coordinare tutte queste tipologie diverse di lavoro e far sì che non accadano incidenti, che siano produttivi, perché i padroni, quello che gli interessa è che ci sia la produzione, che non si spreca tempo, che non vengano pagati in più le persone, perché è tutto lì il discorso. Sarebbe stato molto più semplice: c'è la manutenzione, non si fa nessuna attività di lavoro, è tutto fermo, tutto spento, perché già lì è rischioso. Solo già fare il lavoro di manutenzione in cui non c'è nessuno che lavora in quel momento, già ci sono dei rischi. Il manutentore corre dei rischi enormi. Poi se ci lavora delle persone tutto intorno, io che lavoro in fabbrica devo dire che questo lo abbiamo visto diverse volte, ci sono stati degli incidenti causati delle interferenze. L'incidente più stupido: un manutentore di una ditta esterna sale sopra un elevatore, una scala, quasi gli cade e va addosso a un lavoratore, gli cade anche un martello, gli cade anche qualcosa, un moschettone, che dall'altezza arriva in testa al lavoratore. Insomma, successi casi così, farvi capire cosa è più semplice. Altri incidenti ci sono stati, stanno mettendo tubi, cade il tubo, lì se lavora qualcuno si fa male, cosa si fa? Si cerca di fare tutta una serie di lavori per far sì che non accada. Ed è difficile, perché significa che quelle macchine in quel momento lì non devono lavorare, e significa soldi che perdono i padroni. Le interferenze sono pericolosissime perché si lavora insieme. Poi ci sono dei lavori che devono essere fatti da soli e bisogna che ci si investa perché non accadano queste cose. Purtroppo spesso si lavora in continuità, perché guardiamo le ferrovie, quante volte succedono dei disastri perché non fermano i treni per fare la manutenzione, perché i treni non si possono fermare, la gente deve lavorare mentre i treni vanno. Abbiamo parlato delle stragi, ho fatto una puntata sulle stragi di Bologna, non ne abbiamo parlato nell'introduzione, ma ci sono state diverse stragi commesse sui treni, no? In cui anche lì ditte di appalto o comunque interferenze di ditte che lavorano in maniera indipendente, e lì il morto purtroppo avviene. Nei cantieri è un continuo di incidenti causati da interferenze di varie tipologie di lavoro. Nel mondo dell'edilizia ne sanno qualcosa. Ed è molto difficile. Quello che il segretario della CGIL di Firenze ha chiesto è che quando ci sono queste situazioni in cui ci sono più aziende che lavorano contemporaneamente, bisogna che ci sia un piano che venga spiegato, convocato. La contrattazione può dare una mano. Coinvolgere i sindacati nella contrattazione delle procedure di sicurezza e vengano esposte, che si sappiano, che si vengano rispettate, che tutti quanti vengano coinvolti a livello anche contrattuale nelle tipologie di contratto, quando ci sono diversi attori presenti con diverse situazioni contrattuali, creare un sistema chiaro di procedure che vengano sempre rispettate. Questo può dare una mano, certo che può dare una mano, sicuramente può dare una mano, ed è quello che dovremmo ricercare come delegati sindacali, come dirigenti sindacali, nel costruire. E il governo, i comuni, le regioni dovrebbero chiedere che venga attuato, che venga reso obbligatorio, che sia estremamente sanzionato laddove questo non avviene. Certo, si viene meno la libertà imprenditoriale, gli imprenditori si lamentano ogni volta che bisogna contrattare, ogni volta che bisogna informare, ogni volta che bisogna fare tutte queste cose, hanno il mal di pancia. Chi come me fa attività sindacale da una vita lo sa benissimo che ogni volta che si dice devi discutere con noi, con i rappresentanti della sicurezza, o devi discutere con i tecnici del sindacato, devi discutere con noi nella contrattazione, tutta una serie di cose, avvengono dei problemi. Certamente il ruolo dello Stato però deve esistere, perché questo può succedere dove c'è una forte sindacalizzazione, ma laddove non c'è viene meno. Dunque non possiamo pensare che questo sia tutto in mano alla contrattazione, ma chiaramente devono esserci delle leggi e dei controlli ferrei e delle sanzioni. Cioè, oggi voglio dire una cosa che Calosi ha detto nella sua intervista: effettivamente qui non paga mai nessuno. Cioè, questi qui sono responsabili di alcune morti sul lavoro, ci sono delle persone ben specifiche che sono state individuate dalla magistratura, poi alla fine non gli succede mai niente. Ma niente. Dunque, anche se ci fossero delle ispezioni, delle sanzioni, poi queste non vengono applicate, non serve a nulla. Non serve a nulla. Noi lavoratori che lavoriamo in fabbrica sappiamo che appena facciamo una stupidaggine rischiamo il licenziamento. Questi qui fanno delle cose atroci, hanno delle responsabilità enormi e non pagano mai. I padroni sono come i fascisti, sono impuniti fondamentalmente. La giustizia poi si dimentica, le leggi ci sono ma non vengono mai applicate. O non vengono applicati fino in fondo, o comunque quando vengono applicati fino in fondo si trova sempre il mezzo per non fargliela pagare a questa gente qui. Ora, io credo che comunque sia tra le cose più importanti in cui noi dovremmo comunque ragionare, e ripeto, si parte dall'inizio, la questione dei costi. Se non si cambia una società basata sul profitto, potremmo anche mettere tantissime regole, potremmo anche cambiare tante regole, ma i morti sul lavoro ci saranno sempre. E in un paese come l'Italia, in cui è fondato da piccole imprese, piccoli artigiani, piccole attività, tutte interconnesse, interferenze, appalti su biappalti, questo si amplifica ancora di più, ed è vero, e diventa un dramma, è una guerra. Però comunque di base c'è una società in cui fondamentalmente il profitto è prioritario, e tutto il resto viene dopo, e per questo muore la gente. Dobbiamo cambiare la società per non avere più morti sul lavoro, per poter tornare a casa dopo che si è lavorato in maniera tranquilla, senza rischiare di tornare dentro una bara. Speriamo presto che avvenga tutto questo, e saluto e ci vediamo il prossimo anno molto probabilmente. Orgoglioso de estar. Orgullo.